Signori e signori, bentrovati. Benvenuti su Samarkand Digital Network. Ma soprattutto buona domenica. Eh sì, perché questo è un programmino costruito sulla parola domenica. Angelo De Nardis si occupa di un programmino in cui si occupa dell'importanza delle parole, e oggi ho scelto la parola domenica, ma anche in altre lingue, no? Anche Saturday. Vi ricordate, qualche tempo fa ho costruito una trasmissione sulla musica di Gorny Kramer, e la musica di Gorny Kramer iniziava con domenica è sempre domenica, e questo chiaramente, ecco, lo sentite? Il fisarmonicista straordinario è lui, è Gorny Kramer, è veramente un musicista pazzesco che ha fatto delle melodie meravigliose e soprattutto ha lavorato in commedie musicali che non ai tempi miei, ma ai tempi suoi, di qualcuno ancora più grande di me, credo che tutto si sia potuto godere al massimo della qualità. Dunque, intanto buongiorno, buona domenica, anche buonanotte, perché può darsi che poi noi approfittiamo dei programmi ben fatti per replicarli qualche volta anche in orari diversi. Questa è una canzone, ho il cuore in paradiso, ecco. Ma devi smettere di cantare, perché poi soffi sul microfono e succede un pasticcio. Poi ci vuole l'eco, devi mettere il reverbero. Poi viene meglio, Già, non sei Mina, capito? Non puoi fare queste... Madonna. Cioè, veramente, no? Minimo. Un minimo di... Come posso dirti? Un minimo di dignità. Insomma. Bene, cominciamo con il primo brano. Leva questa reverbero, grazie. È un brano di Cochi Mazzetti che si chiama La Domenica. Aspetto sempre la domenica, perché so che ti vedrò. Tu vieni al dancing come al solito e ballando guardi me, mentre canto. Questa musica d'amore per te. Sempre la domenica, perché so che ti vedrò con quei tuoi occhi così giovani, tu m'hai fatto innamorare. E cantando io ti parlo del mio amore così. Questi dischi non hanno più i solchi, però si incantano lo stesso, Aspetto sempre la domenica. Perché? E la la la, eh? Vabbè, è segno che lei, signorina, signora o signorina, ha passato una bellissima giornata ieri e l'altro ieri, quindi oggi è piuttosto allegra. Ma comunque, voi come sapete, c'è una questione un po' come quella gara canora, no? È domenica per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson, né sirene, né motori, si sveglia la città più dolcemente, perfino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì. E che fa? Ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Addirittura? Ma non che fa? Sempre eccola qui. Domenica si sveglia la città con le campane al primo dindon del Giannicolo. Sant'Angelo risponde dindondà. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Di Gorni Kramer. E ognuno appena si risveglierà. In questo caso interpretata da. Felice sarà. L'avete riconosciuto? E spenderà sti quattro soldi de felicità. Renato Raschel, domenica è sempre domenica, mentre la volta scorsa l'avevamo ascoltata dalla voce di Mario Riva, addirittura, che tra l'altro, insomma, no, sono tutte e due molto belle, ma quella di Mario, forse Mario Riva, è rimasta più iconica. Un'altra iconica, questa brutta, questa parola si usa spesso, troppo spesso. Beh, quella di Fabio Concato, ve la ricordate molto bene. È una domenica bestiale quella con te, eh? È questo che lui sta cercando di... Domenica ti porterò sul lago, vedrai sarà più dolce dirci... Ma ci sono le zanzare. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare. Sì. E fingere di essere sul mare. Le carpe oppure le anguille. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. E che posso dire quanto mi piace sentire la tua voce? Stare. sotto il sole. Fabio Concato, ti rivogliamo di nuovo sui palcoscenici. Sentirsi come un bimbo ad una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti. E strano, non ho più voglia di pescare. L'eleganza, la bravura, la spettacolarità, la bellezza no, non si può più dire, ma insomma, ho intervistato Fabio Concato qualche anno fa, insomma ci siamo divertiti a ricordare un po' di cose di quando eravamo giovani. La domenica, buona domenica, può essere anche lunatica, vero? Per esempio, Ma non era una domanda, lo chiedevo... Ah, perché? L'hai già detto, ti avevo chiesto appunto come mai secondo te... Accidenti all'ipocrisia. No, sei arrabbiato. Alla malinconia. Va bene. Alla noia che ci prende, che non va più via. Com'è simpatica questa vita. Far del male a te, questo lo devo fare perché tu non hai fatto niente di male ed hai ragione te, quando dici che sono un bambino e che non sono maturo. Questa E anche il signor Rossi ci ha parlato di un certo tipo di domenica. Poi domenica può essere anche un nome di donna, anche di uomo, Domenico. Chi altri ci parla della domenica? Achille? Ah, Achille. Vediamo Achille. Vieni. Cani che si annusano, oh no. Oppure gatti che girano al porto. Negli occhi è rock and roll, ai ai, ah, sembra ti tocchino, oh my god, ah, città per camino, yeah. Donne pericolo, yeah. L'amore è un overdose, 150 dosi, oh sì, fanculo e Rolling Stone, è zucchero e lampone, oh, yeah, sì. Mi ingoia come un boh. Lei dice come ho, sì, e poi mi spoglia come un ladro, no. Le tratto bene se non si innamora, no, ah, ah, più tardi in camera. Sì, poi ti chiamerò, è come fosse domenica, bevi ancora presto, presto. È come fosse domenica, sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Al bagno con tre figli e moglie, e mamma guarda come dondolo. Ho un brutto voto dopo il compito. Ah, ah, la sposo come no. Le voglio bene, ma mi do per morto. Ah, ah, ah, sta vita un roller coaster. Romanzo rosa, no, piuttosto un porno. Oh, è come fosse domenica. Bevi ancora presto, presto. È come fosse domenica. Sì, domani poi vedrò come no. È come fosse domenica. Domenica. È come fosse domenica. Domenica. Invece che cos'è? Oh, no, è soltanto per sapere. Ma no, non ti devi offendere. Non ho capito se era un testo da ridere o... Cioè, era serio il testo? Stavi parlando seriamente? No, è soltanto per saperlo, non è che voglio fare chissà che cosa. No, adesso avete messo il microfono in un modo che io devo abbassare troppo la musica per poter parlare. No, così non mi piace, è meglio così. Dunque, Lucio, vieni, parlaci della domenica. Vieni qua. Questo è il microfono, mettiti seduto. Usi la tastiera? Non voglio alzarmi, è domenica. No, ma puoi rimanere per me, porto un cappuccino. Voglio pensare solo a te. A me? Grazie. A te che dormi su una nuvola. Beh, questo è vero, eh. Questo è verissimo, guarda. A te con me, a me con te. Me lo dicono tutti, eh sì. In fondo è una giornata stupida. Di alternative non ce n'è. Quello che c'è è una noia umida. In questa stanza senza te. Vorrei dormire, ma è impossibile. Mamma sta al caldo delle tre. Mi vesto, esco come un missile. Vuota la città, è vuota come me. Domenica, l'estate, ho freddo senza te. Il sole picchia come un pugile, ma nel mio cuore nevica. Potrei buttarmi dentro un cinema, ma di vedere un porno non mi va. Tengono chiuse anche le chiese qua, in questo cesso di città. Però dal cielo comincia a scendere la sera, sulle tovaglie di qualche ristorante possono vedere già le stelle, mentre si accendono qua e là. Non voglio andare a casa, è domenica, voglio pensare solo a te che dormi su una nuvola, a te con me e a me con te. Domenica d'estate, ho freddo senza te. Le stelle ci sono tutte, ma nel mio cuore nevica. Oh, oh. Domenica d'estate, no. Lontani come statue, no, perché tra poco passa l'autobus, fa un'altra corsa e l'ultima. Anna, questo album bellissimo di Lucio Dalla, credo che sia proprio ora di rimetterlo sul piatto e di ascoltarlo. Bellissima questa canzone, Domenica, non me la ricordavo per niente. C'è qualcuno che ha cominciato a fare delle richieste, ha scritto Tiro Mancino. Un po' all'inglese, ma insomma il concetto è quello? Guardo fuori dalla finestra e cerco nuove emozioni. C'è quella leggera incertezza e piovono canzoni. Vola la mia mente su Roma e mi riporta negli anni Ottanta. Partitelle senza regole sotto casa, finivano ai rigori su una serranda chiusa, e nei cuori avevamo scoperto l'immenso tormento di quei primi amori che ci portiamo dentro. È già domenica, mentre fuori splende il sole, dentro nevica, perché a volte la tua vita quello che volevi te, volevi te. Mentre tu prepari la cena silenziosa in cucina, penso a come organizzare un'altra settimana. Se devo essere sincero, ho solo in mente di starmene con te senza troppa gente, perché è domenica, mentre fuori splende il sole, dentro nevica, come quando la tua anima si sbriciola, poi trova sempre il modo di ritornare. Giusto mi chiedevo quando faceva un pezzetto di musicale per poterci parlare sopra. Però è bello accendere la radio e trovare delle canzoni che magari conosci bene, che ti va di cantare, no? Come? Ah, non dovevo intervenire adesso? Stavate cantando la canzone? È già domenica. Vabbè. Mentre fuori splende il sole, dentro nevica, come quando la tua anima si sbriciola, poi trova sempre il modo di ritornare. Tiro Mancino a Samarcanda Digital Network. Buona domenica. E non lasciarci mai. Vabbè, che palpebre, ho capito. Oh, è tornata una signora. Una signora elegante, ironica, grande cantante. Anche lei ha qualcosa da dire sulla domenica. Che bellezza oggi è domenica, il giorno più bellissimo, mi faccio un riposissimo. E lo zecchino d'oro? No, poi mi faccio una dolcissima, ma squilla già il telefono, amore adesso no. È un'amica mia carissima, la liquido in un attimo, amore caro aspettami, non arrabbiarti no. Certe voglie vanno e vengono, lo so, non ci sono regole, ma amore adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri giù, che pezzo sei, che bello, dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me. Che importa se posso, non c'è, se piace a te. Ma una domenica, tranquilli, non si può restare un po'. È già l'ora delle pentole, spaghetti con le vongole, la torta con le fragole, che piace tanto a te. Le posate sulla tavola, il vino in frigorifero, amore, adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pazzo sei, che bello, dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me. Che importa se posso, non c'è, se piace a te. Ma una domenica, tranquilli, non si può restare un po'. Poi tu prendi l'automobile, la nota spiderissima, tirata lucidissima, che oltre non si può. Che bellezza oggi è domenica, ma il prato è già pienissimo. Amore, adesso no. Che cosa fai, ma cosa vuoi, stai fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pazzo sei, che bello, dai. Contro di me, sopra di me, sotto di me, di fianco a me. Che importa se posso, non c'è, se piace a te. Ma una domenica, tranquilli, non si può restare un po'. Mi trascini dentro un cinema, ci danno una pellicola per niente eroticissima. Io mi rilasso un po', quasi quasi mi addormento. Ma le dita tue mi cercano, amore, adesso no. Una domenica, tranquilli, non si può restare un po'. Che bellezza oggi è domenica, il giorno più bellissimo, mi faccio un riposissimo più lungo che si può. Che bellezza oggi è domenica, il giorno più bellissimo, amore adesso no. Ma succede sempre così, tu dici, ah, oggi mi riposo, mi alzo tardi, poi un attimo ti alzi, vai a guardare, errore, il cellulare, e niente, comincia, no, devo ricordarmi questa cosa, ah, non devo rispondere a questo, niente, non torni più a letto, dici, ma com'è, non era questo che intendeva Ornella Vanoni? No? Ah, e che cos'era? Una cosa completamente diversa, ma perché si fa soltanto la domenica? Io non lo so, perché siete ridotti così. Vabbè, da una domenica movimentata a una domenica delle salme.

addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta. Bellissima, non me la ricordavo proprio. Ogni tanto ci vuole un pezzo così, così potente, eh? Soltanto Fabrizio De André. Vediamo i Subsonica, invece, che cosa ci dicono della domenica? Che cosa accade di domenica, per esempio? Certo, dopo una cattedrale come la canzone di Fabrizio De André, la Domenica delle Salme, i poveri Subsonica, ce ne vuole un po' prima di riprendersi e seguirli come si deve. Chiedo scusa ai Subsonica di averli messi dopo un pezzo così pazzesco, ma avremo occasione di rimescolare le carte. Benvenuti su Radio Samarcanda. Accendetela anche in DAB nella vostra automobile. La trovate, c'è scritto Radio Samarcanda. L'M DAB. E Roma è provincia. Bisogna sempre dirlo perché molti continuano ad avere l'FM ma non sanno di avere anche il DAB. Potete trovare tutte le stazioni che sentite ora, eh? Non è che cambia niente, anzi forse qualcosa migliora nel suono, nella qualità. Ciao Subsonica. Dunque, quello che abbiamo capito è che di domenica molti lo fanno. Ecco, lo fanno solo di domenica? E questa è la domanda che noi continuiamo a farci. Vediamo che cosa ce ne dice, che cosa ci dice della domenica un artista che si chiama Coes, ma se fosse in latino potrebbe essere Ces, ma Ces suona male, quindi Coes. Domenica, buona domenica. Ah no, beh, questo lo dice l'altro. Domenica. Andare in bici senza mani, una risata isterica. E sconvolgere. Una risata senza. Vabbè. Volare senza i denti. Senza elica con te. Vorrei fosse domenica. Niente stadio, né partite, una coda patetica. Su questa strada andare, volare senza elica. Senza elica, io e te. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento. Piedi sul cruscotto, io il braccio che penso là, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso là, mia vita senza te. Vorrei fosse domenica e tua madre fosse meno, un po' meno nevrotica, e tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica, io e te ride. Come se fossimo destini che si corrono a casa, con le mani nel vento, come fosse domenica con te, vorrei fosse domenica, vorrei fosse domenica, e stringi la giornata fra le dita, che fra poco è già finita. Così è la vita, così è la vita. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a casa, con le mani nel vento. Secondo artista che come fosse domenica con te, ma perché se non è domenica con te, anche prima che non so se era no, Tiro Mancino mi pare. Ma vabbè, è un augurio che ci facciamo continuamente, giusto? Ecco, e infatti adesso perché ridono? Che succede? Che continua a dirti che è domenica. e poi è domani che ti frega. Ciao, ciao, buona domenica, davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Imbecille, poi apre la porta la domenica. Ciao, ciao domenica, passate a scrivere da sola 20 minuti su una pagina e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, pensare, e questo tu lo chiami amore. Ciao, ciao domenica, Madonna non finisce mai, solo le sei c'è ancora il sole fuori, nessuno a cui telefonare. Ciao, ciao domenica, il tuo ragazzo non ti chiama, tristezza nera nello stomaco e in testa voglia di morire. Ma non morire di domenica, aspetta ancora una domenica. Ma io in tutta sincerità non mi ero reso conto che la domenica fosse così importante qui in Italia. Ma in fondo è un giorno come un altro. Un giorno dove in realtà puoi fare quello che ti pare. No? Non è così? Non so, non mi sembra un dramma qui, ogni volta c'è un problema da risolvere. È che la domenica accadono delle cose che durante la settimana evidentemente non hanno il tempo di evolversi, di nascere, di insinuarsi. Chissà che succede di domenica. In molte case, in molte menti, in molte storie d'amore, ma... Per molti è una giornata di tensione sportiva, no, più che sportiva, calcistica. Per altri, ristorantino, code, macchina per andare al mare, se per fare una gita, non lo so. Io sto tanto bene a casa. Al massimo innaffio le piante, se c'è il sole, o leggo un bel libro. Vabbè, questo lo fai tu, gli altri fanno quello che gli pare. Scusa, no? Allora, c'è un'altra richiesta. Holly? Julie? Ma chi sono? E anche loro questa domenica. Sono di poche parole. Ecco. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Lo vedi? Che lo vedi? Te ne frega se piove. Vabbè, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Bello, divertente. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Cosa? Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Ma c'è quello di guardare la pioggia? Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Dimmi che rimani pure se non piove più. Se è domenica magari non ha il passaggio. No, io no. che mi passa per la testa, non lo so. Indovina? E no, io no, finché non ti addormenti tu non dormirò. Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi, ed è da questa domenica che è capitato a noi. No, io no, ci siamo detti già tutto, ci siamo fatti paura, ma certe cose giuro non le ho mai dette a nessuno. Lo senti questo rumore? Che bel casino, due calici di vino, ti ascolterei per ore, mi dai quasi fastidio. Di già? Sei rimasta qua ora che non piove più. No, io no, che mi passa per la testa, non lo so. E no, io no. A cosa dici no? Non capisco. Aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più. Ma come, non pioveva prima? Vabbè, no, no, cioè, ci sono delle cose che non capisco come anche per oggi non si Che? Chi è? È la domenica italiana. Mangio pizza, pasta, lasagna. Oh, c'è Madonna, con l'ana, con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma. È la domenica italiana. Mangio pizza, pasta, lasagna. Gesù sulla collana, con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma. È la domenica la italiana. La mia musica è spietata, la mia terra è spietata. La cuca che ti è tagliata, la tua troia è squagliata. Non localizzi sui radar la villa nuova in campagna. All'alba di una retata, merce già dentro la fogna. Mangio pizza, pasta, sono un'italianastra. Quando passi da qui non la porti la collanazza. XADV col completo fatto dal sarto. Occhio i termini del patto, se non sto contratto salta. Zumba zumba su sto cazzo di marmo. Ogni mio compagno è un cozzalo, uno zampo. Quanta pazienza che tengo, mi faranno santo. Quante puttane che tengo, le passo ad Armando. Primitivo di Manduria nella vasca, vuole un figlio maschio. Vuole il mio cognome, il mio rispetto, signora dal tacco. Vengo dei mattoni, da un ambiente marcio. Dei fornelli accesi, dal cucchiaio, dal culo del piatto caldo. A tavola! È la domenica italiana. Mangio pizza, pasta, lasagna. Gesù sulla collana, con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma. È la domenica italiana. Mangio pizza, pasta, lasagna. Gesù sulla collana, con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma. È la domenica italiana. Non sto facendo una lira, quindi chi cazzo ti credi? Bevo solo tequila, mi sta spappolando il regno. La cervicale infiammata, sto male in piedi. Ho la scogliosi perché sto sempre piegato per contare i biglietti. Ho la testa sull'iPhone ma mo non stanno le botte. Si crepava lo schermo per quanto cazzavo forte. Prodotto rimasto nelle fessure rotte. Sballo il ciclo circadiano, inverto il giorno e la notte. Questa è merda per pochi, dovrebbero darmi le lodi. E sono tutti gelosi, siete tutti puzzoni. Marmitte truccate sotto i motori. Stambiente pieno d'attori. Passi recitazione coi pieni voti. Tengo amici tra i sassi ma non fanno i muratori. Altri fanno i muratori e sono più brutti dei tuoi. I portafogli vuoti portano alle malazioni. Più anni dentro che fuori, vaffanculo alle prigioni. È la domenica italiana. Mangio c'ho pizza, pasta, lasagna, Gesù sulla collana con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma e la domenica italiana. Mangio pizza, pasta, lasagna, Gesù sulla collana con la famiglia a casa. Ho la fissa dei soldi e la strada, uccido per mia mamma e la domenica italiana. Rari dal tacco, e qui si capisce in che posizione si trova, ed ecco perché rischia sempre di beccare, capito? Questa canzone si chiama Domenica. È già domenica almeno qui dentro. Ultimo. In questa casa in cui tu mi hai promesso di essere sempre per sempre, sempre una parte di quello che in fondo non perdo. È già domenica e non ce la faccio. Guardo il soffitto e pian piano ci parlo. Per te va sempre tutto bene, non ti accorgi delle crepe che si formano sulla parete. Vorrei sapere che mi manca ora, ora che ho tutto quello che volevo. Ma c'è qualcosa che mi manca ancora, forse riavere di te il desiderio. E guarda amore, io ti dico, sono solo e triste, lo hai capito? E tu rispondi, aspetta, dopo un mese. Sono dimagrita, non si vede. Io sì, dai, forse un po' si vede. Ma mi sento vuoto, che succede? Tu continui a dire che sei felice, Dio che in imbarazzo, sposto il piede. No, non sei più parte di quello che c'è. No, non sei più parte di quello che c'è. Ma davvero non ne avete abbastanza del tema sulla domenica? Sul serio? Cioè, vi va ancora di ascoltare qualcosa sulla... Perché metti il compressore? È già domenica e sono già sveglio. Ti sento e parli con le amiche ridendo. Provo a chiamare Alessandro dal letto, ma è troppo presto, al telefono spento. Pipì non l'hai fatta? Anzi, mi alzo dal letto. C'è il gatto almeno, lui sa cosa sento. Sì. Tu esci dal bagno di corsa, dici stasera una pizza, c'è mia sorella che torna. Vorrei sapere che mi manca ora. Ora che ho tutto caffè, quello che volevo. Ma c'è qualcosa che mi manca ancora, forse riavere di te il desiderio. Aia. Amore, io ti dico, sono solo e triste, lo hai capito? Tu rispondi, aspetta, dopo un mese. Sono dimagrita, non si vede. Io sì, dai, forse un po' si vede. Ma mi sento vuoto, che succede? Tu continui a dire che sei felice, Dio che in imbarazzo, sposto il piede. No, non sei più parte di quello che c'è. No, non sei più parte di quello che c'è. Beh, carina però, eh? Ultimo, questa volta, questo ultimo domenica che abbiamo passato insieme, mi fa venire voglia di guardare un po' al passato, e cioè al giorno prima, per esempio, no? Ma ci può stare un sabato, no? Ah, ci può stare un sabato, no? Tanto poi si arriva la domenica e si torna. Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via. Lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. Dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente dei momenti più felici. Abissi imperscrutabili le donne del degli amici e questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via. Vado a fare, non voglio mica smettere di bere e di fumare in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano, e in questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra Beh, ma poi arriva la domenica, capito? E qui abbiamo scoperto che c'è una situazione difficile la domenica, Sergio. Sergio Caputo ha fatto questo disco bellissimo, tra l'altro, devo dire, è proprio una cosa... Senti che jazz, senti che sound. No, ma purtroppo questo dirigibile, no, che ci porta via la notte... È bella questa immagine, no? Vero? Però poi arriva la domenica, capito? Qui la situazione si fa difficile. Arriva la domenica e... Penso come te che sia tutta una bugia. Parlami più piano, andiamo verso casa mia. Nonostante il male, nonostante la poesia, bruciano le ore, il fumo se le porta via. Caro mio, passa la notte a pregare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Caro mio, passa la notte a cercare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Una tragedia. Blue M. Nonostante il male, nonostante la poesia, bruciano le ore, fumo se le porta via. Nonostante il male, nonostante la poesia, considero anche tua qualunque cosa mia. Caro mio, passa la notte a pregare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Caro mio, passa la notte a cercare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Mentre vagliamo letto, muore la sera, aspettiamo la primavera, non c'è ora più vera di quando muore la sera. Passa la notte a pregare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Caro mio, passa la notte a cercare Dio, copri gli specchi nell'andito, guardami mentre mi agito. Mentre vagliamo letto, muore la sera, aspetta. interessante musicalmente, ma e lo so, della storia non ho capito un tubo. Forse Domenica è il nome di un'amica sua. No? Sono cretino? No, a me, ma non ho capito. Va bene, allora, Blue M. E Zucchero invece ci parla del suono della domenica. Questa è Radio Samarcanda, io sono Edith. Non l'avevo detto, Ho visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità. Mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità. Paese, ti lascerò un sorriso, ciao, ciao, e rabbia nuova in viso, ciao, ciao, la tenerezza che, ciao, ciao, fa il cuore in gola a me. Al mio paese è ancora giallo il grano a braccia tese verso l'eternità. Il mio paese, mio paese, vedo fiorire il buono, le botte prese, non le hanno rese mai, al mio paese. Ah, ecco qual è il suono della domenica. Zucchero! Che suono fa la domenica da te? E poi si interrompono queste storie senza andare a... Vabbè, insomma. Oh! Brunori Sas sposta un attimo la dimensione della domenica mattina alla notte. Quindi questa è una domenica notte. Che succede una domenica notte? Sono le 4 del mattino. Guardi la TV. Ancora. Abbracciato ad un cuscino. Cos'è che vuoi di più? Ah, beh. Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando. Le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando. E la conosci questa sensazione? questo senso di vuoto senza una ragione. C'è un frigorifero più grande, ma la bottiglia è sempre quella lì. Sembra una moglie paziente che non ti rinfaccia mai niente e non ti chiede dove sei stato, cosa hai fatto. La trovi sempre lì, fra una carota e una cipolla. Ti dice amore vieni a prendermi. Ma la conosci bene quella tentazione, con la voglia di fuggire senza una ragione. Era, era, era, era, era. Finito? Finita la storia? C'è altro? Conosci quella tentazione o quella sensazione? Non capisco bene. Aspetta, prendo anch'io la chitarra. Ed hai lasciato quel pacchetto dentro la valigia blu. Avrei smesso 100 volte, 100 volte adesso una in più. E c'è gente che lavora aspettando un altro lunedì, mentre il cielo si colora e riesce anche a sorprenderti. Perché quest'alba è una benedizione, è un bacio, una carezza, una consolazione. Dai, la, la, la. Ritorni a letto, spegni la TV. Quindi sono 4:30. E si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più? Ma la conosci bene questa sensazione? È una specie di ottimismo senza una ragione. Eravamo andati da Sergio Caputo a sentire Il giorno prima, un sabato italiano, come poteva essere, poi siamo tornati di nuovo alla domenica, è tornata un po' di depressione, ma se una domenica da coma, solo J-Ax ce la potrebbe far ascoltare. Speriamo bene. Ma c'è ragione J-Ax, scusa, ma davvero vivete così la domenica? Soldati strada come italiana, c'è qualcosa che mi schifa. La macchina pulita, il gelato con la tipa. Non è che mi spaventi, non lavoro e la fatica. Ma come fai in due giorni a costruirti una vita? Io stasera invece voglio andare a letto tardi. Non voglio regalare la mia vita a quei bastardi ancora. Io odio morte sta domenica da coma. E odio morte che domani si va a scuola. Odio sti zombie sfigurati dalla moda. I negozi con la serranda chiusa ancora. Io odio morte sta domenica. Questa fa il paio con quell'altra, sì, quella della... Dunque, vediamo una domenica d'estate, come potrebbe essere? Oh, finalmente qui sembra che ci sia un po' di buon umore. Seba. Chi è? Sebastiano, no? Seba. I passeri assiepati sugli alberi spogliati si fanno compagnia. No, gli inizi delle canzoni bisognerebbe metterle tutte insieme. Foglie secche pronti a andare via. Quando riascoltate questo programma, arriva come un acquerello, tinge casa mia. Prendete appunti, Voglia di giocare e di respirare gli attimi che vanno via. Ed io mi sento un po' a metà. Mi sono perso, non ho sentito, cioè, ho sentito il violino, mi sono... Che, domenica dove vanno? Le luci colorate per la festa in piazza mettono allegria. Un fuoco d'artificio scoppia all'improvviso, i bambini guardano su. Il temino delle elementari, ma che cos'è? Mi protegge, mi tiene stretto stretto, vorrei restare. Si va a dormire fino alla mattina, si sveglia la città e un altro giorno arriva già. E meno male che si sente bene. Domenica. Nonna, che tristezza. Non è che deve succedere qualche altra cosa, eh? Il finale della canzone è finita, no? Non mi devo aspettare qualche cosa nel finale, vero? Domenica. No, mi pare che c'è. Si sente bene, ho capito, sì. Basta, eh. Ok. Di domenica, proprio il giorno. Domenica, e mi sento bene. Domenica, vabbè, è felice Seba. Andiamo al mare. A modo suo è felice. Secondo me c'è l'ultima battuta. Ah no, no, non c'è qualche cosa. Vabbè, dai, Bobby Solo. Almeno quando no. Doveva parlare di una domenica d'agosto. Domenica d'agosto, che caldo fa. La spiaggia un giro arrosto non servirà. Bere una bibita se in fondo all'anima sogno l'oceano splash. Oh, anche qui ci siamo sprecati. Ondeggiano le palme da dattero. In cielo un volo di elicotteri, sopra lo scoglio c'è una ragazza che ride, si tuffa giù, splash. fenicotteri, datteri. Tutto ciò che non hai. Sopra lo scoglio c'è una ragazza che ride, si tuffa giù, splash. Vieni qui, lei mi fa turila turila la. Vieni qui se ti va, turila turila la. Qui da me troverai turila turila la. Tutto ciò. Allora, voglio dire, questo turila turila la, cos'è, una cosa censurata? No, per capire. In cielo c'è una stella che guarda giù. Una sola. Splash. Non si capisce se è un tuffo o uno sputo. Vabbè, allora, dunque, per parlare di domenica mattina, no? Sentiamo come se la cavano gli inglesi, per dire. Così. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. Nico, a Velvet Underground. Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Convinto che i prossimi musicisti che vengono a trovarci questa domenica abbiano preso di sicuro spunto. La domenica mattina. Infatti. Voglio stare nel mio letto. Dai. Necessaria un'aspirina. Pure. Per non diventare matto. Matrioska. Faccio un giro nel giardino. Lei mi dice o senti un po'. È stato bello, non ricordo, non lo so. E non capisco perché non mi ricordo di te. Probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista. Però quel giorno devo aver esagerato un po'. Vado avanti a camminare, sì. Devastato dalla noia. che mi manca l'aria. Sei sicuro di star bene? Salta fuori ancora lei, con un tono un po' scarbato. Dico, ma chi cazzo sei? E non capisco perché non mi ricordo di te. Probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista. Però quel giorno devo aver esagerato un po'. So, e non capisco perché non mi ricordo di te. Probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista. Però quel giorno devo aver esagerato un po'. E non capisco perché non mi ricordo di te. Probabilmente non stavo troppo bene, ma nella mente lo so che l'ho già vista. Però quel giorno devo aver esagerato. Devo aver esagerato un po'. Come dicevano Illica e Giacosa, nella Bohème la brevità gran pregio. So quello che pensi tu, ci conosciamo da poco. E non lo vedi come un gioco, ma tu vuoi la verità. Davvero non mi credi che sono uguale a come vedi. Sono dei tempi un po' difficili, ma questo si sa. Che vuoi che se si risultiamo complicati anche noi. Anche noi. Un posto per me e lavorare mi stronca la domenica mara, la vita mi manda a fanculo e tu complice, complice, complice dei miei dubbi esistenziali. Sono dei tempi un po' difficili, ma questo si sa. Che vuoi che se si risultiamo complicati anche noi. Vabbè, questo sound sanremese, lui è Canova, Domenica Amara, mi fa venire voglia di ascoltare di nuovo una canzone di Lucio Dalla. No, perché? È dura. Domenica Amara, l'esistenza è amara, Canova, niente proprio di meno si fa chiamare così, ma lo è sicuramente. No, sono simpatica, ma sciacqua, non so come dire, il cervello si può... Ecco, questa è già una cosa diversa. Non credo che si parli di domenica, forse di un lunedì, ma non lo so. È la sera dei miracoli. Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere e passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Così nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Da lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. We're in love, you are, you're not in love. Ecco, mi ci voleva una canzone italiana che non avesse nulla di sciacquoso, eh? Insomma, non è troppo, eh? Bellissima dal vivo, eh? Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Bene, c'è una signora che si chiama Etta James che ha scritto una canzone, anzi la canta, forse non l'ha scritta lei, che si chiama A Sunday Kind of Love. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show me the way. And my arms need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Tuesday, a Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, or nothing but Sunday. Oh yeah, yeah. I want a Sunday, Sunday. Sunday Kind of Love, Etta James. Quindi è confermato questo fatto che la domenica, insomma, si fa in qualche modo. Ma perché sono così bravi questi? Forse usano delle droghe migliori? Non lo so, no. Questa era Radio Centro Idea, adesso è Samarcanda Digital Network e io sono Edit. Questa è domenica, stiamo parlando della domenica attraverso le canzoni. Vediamo chi salta fuori. Ah, Sunday, The Cranberries, eh? Thank you. Sunday, ecco perché la voce andava via. Di nuovo ho messo il compressore, ma sono veramente una capoccia dura, come si direbbe in gergo. Buona domenica, sono Edith. Questo è un programma costruito sulle canzoni che parlano della domenica. Abbiamo scoperto che la domenica succedono cose strambe. Un altro che ce ne può parlare è un certo Iggy Pop. Anche Iggy Pop parla della domenica mattina, ma in questo caso io ho meno elementi, perché capisco poco l'inglese e quindi non so che cosa sta succedendo. Posso farli cantare, possono dire qualsiasi cosa. I'm sorry. No, è che questa gente quando suona... Sunday, Iggy Pop! Di sicuro qui c'è lo zampino di David Bowie. Spesso qui a Roma diciamo David Bowie, ma credo che sia proprio Bowie e non Bowie. Fa un po' figo di David Bowie. Bowie, David Bowie. Dunque, io vedo che c'è un personaggio molto interessante che mi incuriosisce sulla questione della domenica, e lui si chiama Moby, newyorkese. Il pezzo si intitola Sunday, the day before my birthday. Sunday was a bright day yesterday. Dark cloud has come into the way. Sunday was we'll be right back. Diciamo che il pezzo dei Velvet Underground che abbiamo sentito prima è forse uno dei più frequentati dal punto di vista del rifacimento, delle cover. Questo pezzo di Moby invece è molto bello. In un disco si chiama Sunday e in quest'altro si chiama Sunday, the day before my birthday. Potrebbe essere lo stesso brano, ma... io so che lui si diverte a cambiare un po' le carte in tavola quando ripercorre delle partiture. Comincio a intervenire sulla musica perché siamo addirittura d'arrivo. E bisogna chiudere questa domenica. No, che è appena cominciata, insomma, vabbè, sta per finire, non lo so, dove siete? Sto leggendo dei titoli piuttosto accattivanti, uno si chiama Sunday Morning Coming Down, e l'altro Why Are Sunday So Depressing? Adesso bisogna scegliere il male minore. Moby, per esempio, sono molto curioso della cantante dei Ram, R.A.M., come si è orientato su questo pezzo famoso? E addirittura... Sunday morning. Subito si capisce che siamo di nuovo dentro la pagina dei Velvet Underground di Lou Reed. I've got a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Sunday morning. It's all the streets you crossed not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday. La voce del cantante dei Ram in questo pezzo di Lou Reed, dove ci sono due Lou Reed all'interno di questo brano bellissimo, direi molto bello. Domenica, ah. Signore e signori, vi ringrazio. Segna la città con le campane al primo dindon del gianicolo. Santa risponde. Ecco Mario Riva. Dunque, a parte qualche particolare, insomma, sempre domenica, alla quale si poteva anche rinunciare, insomma, in qualche modo mi sono anche divertito a creare questa domenica con la domenica, con le domeniche cantate da tantissimi artisti. Per i poveri e i signori, ognuno può dormire tranquillamente, né clacson né sirene né motori, si sveglia la città più dolcemente, persino il gallo molto premuroso non fa chicchirichì, ha scritto sul pollaio buon riposo, ritorno lunedì. Anche io vi saluto e ritorno lunedì, martedì, mercoledì, giovedì su Radio Samarcanda Digital Network. Edith vi lascia con l'orchestra di Gorni Kramer e con la voce di Mario Riva. Vi dice ciao ciao e buona domenica. Domenica è sempre